24 mattino. L'Italia si desta. Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati. Siamo addirittura in anticipo, 6:29. Un buongiorno da Irene Zerbini. 24 mattino con quest'ultimo speciale festività invernale, lo possiamo definire così. Da domani torna Alessandro Milan e la formulazione a cui siete abituati col Parlamento, la presa in giro della politica ce n'è in questi giorni, anche non si fossero dimostrate delle scelte, diciamo così, in malafede, fossero solo errori quello di cui si parla in questi giorni, basterebbe non solo per prendere in giro ma veramente per puntare il dito in maniera pesante sul dilettantismo quantomeno di chi cambia il decreto sul fisco e manco si accorge, diciamo così, no? La soglia del 3% non sarà applicabile alle frodi, sappiatelo, mettetevi il cuore in pace. So che molti italiani in questi giorni erano lì appunto a calcolare, no? Io stessa mi sono messa lì, ho detto vediamo adesso se si depenalizza il 3% di quanto uno dovrebbe pagare, fino a che soglia si può evadere in un paese dove se paghi la multa con un giorno di ritardo ti raddoppia addirittura l'ammontare, in un paese dove le aziende sono costrette a chiudere perché la pubblica amministrazione paga in ritardo. Noi ci siamo ritrovati con questa barzelletta, poi vedremo, rilanciato, riportato tutto, rimandato tutto al 20 febbraio, questa barzelletta del 3%. Quanto posso evadere quest'anno? E ti metti lì con la calcolatrice ringraziando la scuola che quattro elementi di matematica te li abbia dati. Poi in Italia li avresti utilizzati proprio per questo. A proposito di scuola, sentiamo cosa ha detto il Presidente del Consiglio. Nel tornare a scuola prendiamoci, guardandoci negli occhi, l'impegno a considerare la riforma della scuola non una delle tante riforme che il governo sta facendo, ma la riforma fondamentale per restituire dignità, speranza, emozione, bellezza a questo paese. Se riparte la scuola, riparte l'Italia. Vabbè, niente 3% allora. Quindi non vale neanche la pena seguire le lezioni di matematica quasi quasi. Se riparte la scuola, riparte l'Italia. Come sarà questa scuola con un anno di prova per i neoassunti? La stabilizzazione di quasi 150.000 precari storici, l'introduzione del merito anche per i professori con conseguente variazione di stipendio. Attenzione, potenziamento di arte, speriamo, di musica, di inglese, di nuove materie come il coding, la programmazione informatica. Almeno questi sono i punti della riforma della scuola promessa dal governo per fine febbraio. Ve li ho elencati traendoli da un articolo di Orsola Riva sulla prima del Corriere. Trovate un approfondimento sulle scelte del governo, su cosa si privilegerà, un po' su tutti i giornali, perché oggi riaprono le porte di questa scuola italiana bistrattata e comunque anche molto stimata all'estero. Allora facciamo attenzione, perché c'è stata una riunione a Bruxelles il 18 dicembre in cui si sono presentate le eccellenze italiane. Ebbene, tra le eccellenze si è presentata proprio la scuola, una scuola in particolare. Oggi con noi c'è il suo preside, che ringrazio per la levataccia. Saluto, buongiorno, benvenuto Salvatore Giuliano. Buongiorno, buongiorno a tutti voi, grazie per aver chiamato, grazie a voi. E tra poco aprirà le porte della sua scuola, che è il Majorana di Brindisi. È un liceo classico? No, è un liceo scientifico con opzione scienze applicate e industriale con specializzazione in chimica, biotecnologie ambientali e sanitarie. ITIS Majorana di Brindisi, sì. Ha raggiunto non solo le punte dell'eccellenza in Italia ma perfino Bruxelles, e ha presentato questo modo innovativo, nuovo di fare scuola al vicepresidente della Commissione Europea, al presidente del Consiglio Matteo Renzi. Sostanzialmente, se lei dovesse sintetizzare in cosa consiste l'innovazione del suo istituto, come la definirebbe, preside? In pochissime prime parole. L'innovazione attuata da noi oramai a partire da 5 anni consiste nel mettere al centro di un percorso di apprendimento l'alunno. Sembra strano, ma è proprio così. Quindi abbiamo cambiato il modo di fare scuola, ci siamo prodotti contenuti, prima da soli, adesso con una rete che riguarda 200 scuole in tutta Italia, i docenti creano i contenuti che vanno a sostituire i tradizionali libri di testo e i contenuti sono anche diventati digitali, multimediali interattivi, i ragazzi studiano e lavorano con un loro tablet ed è cambiato il modo di fare scuola. Io dico sempre che se un nostro antenato tornasse in vita non riconoscerebbe la propria città, ahimè se ritornasse in una classe la troverebbe identica. Uguale! È una cosa terribile quella che ha detto, preside. Ma infatti non si riesce a capire. Per cambiare qualunque cosa in Italia c'è bisogno della riforma, del ministro, del governo. Ma cosa ci vuole a dire ai ragazzi? Ridipingiamo questa classe, appendiamo delle cose. Sono degli immobilismi terribili questi che potrebbero essere lasciati, diciamo così, all'iniziativa individuale. Si aspetta sempre che arrivi l'istituzione a dare la circolare o l'ordine. Invece, quando si entra nelle classi dell'Istituto Majorana, prima di tutto non si trova la cattedra. Ma che aspetto hanno queste classi? Provi a darci un video via radio, provi a far così, preside. Allora ci provo, è abbastanza semplice. Quindi i ragazzi lavorano con su delle sedie che fanno anche da tavolo, le sedie si possono cambiare tranquillamente di posizione, quindi può cambiare la disposizione dei ragazzi. I ragazzi lavorano per gruppi omogenei o eterogenei di competenza, quindi non più solo ed esclusivamente la lezione frontale dove uno parla, magari 20-25 dormono dall'altra parte, ma i ragazzi diventano protagonisti attivi del loro percorso di apprendimento. Proprio anche ieri sera l'ho detto in televisione, la futura presidente del CERN, direttrice del CERN, diceva proprio che i ragazzi non sono abituati. Vogliamo fare il nome, visto che quando abbiamo eccellenze italiane, giusto anche, così ci alleniamo per quando intitoleremo una via a questa signora. No, spero in tutto il possibile iniziare la via. E sì, la Giannotti ha detto appunto che i nostri ragazzi non sono abituati a lavorare in gruppo. Ne ha detto anche altre, sempre sulla scuola, quindi la scuola dovrebbe aprirsi di più all'alternanza scuola-lavoro, quindi alle imprese, confrontarsi e crescere insieme anche a come cresce la società. Noi molte volte aspetti, adesso sta diventando un po' professore, giustamente lo è. No. Dialoghiamo prima di insegnare. Allora, io voglio farle delle domande, poi dopo trarremo delle conclusioni. Preside, e le domande sono queste. Lei ci ha parlato e voglio dare anche un sito, si chiama Book in Progress. Sì. Book in Progress. E com'è il sito esattamente? .it o .com? .it. Siamo in Italia. Ok, allora bookinprogress.it, attenzione, andateci, perché anche se non frequentate l'Istituto Majorana potete trovare materiale didattico di tutte le materie che hanno scritto questi docenti e che può essere utile agli allievi di tutta Italia. Quanto hanno risparmiato le famiglie che frequentano il suo istituto in corredo scolastico, in libri, visto che ogni genitore sa bene che costa più o meno, se si è fortunati, dai 300 ai 400 euro l'anno avere un figlio iscritto alle superiori. Invece da lei quanto costa? La dotazione libraria di una prima classe non supera 50 euro, la dotazione libraria, quindi libri in carta, mentre la versione digitale è gratuita, quindi la forniamo gratuitamente alle famiglie. Il risparmio di spesa viene investito, realizzato su libri di testo dalle famiglie, viene investito in tecnologia ed ecco quindi che tutti hanno un tablet. Esatto, quindi tutti sono attrezzati per diciamo così i tempi di oggi e per seguire le lezioni anche attraverso il tablet. Questi professori, questi docenti che hanno scritto i libri di testo, l'hanno fatto in orario di lavoro o fuori dall'orario di lavoro? Essenzialmente in orario fuori di lavoro. Per quanto riguarda i contenuti sono disponibili. E non si sono fatti pagare? No, assolutamente no. Sono disponibili su iTunes U, che è una piattaforma gratuita, si può consultare da qualunque dispositivo. Altra cosa sulla quale credo tantissimo, per cambiare la scuola occorrono le famose 3P, che sono passione, passione e passione. se mettiamo passione, allora riusciamo a cambiare la scuola, senza aspettare riforme che vengano calate dall'alto, ma chi vuole cambiare le cose lo fa, non aspetta nessuno, ecco. Preside, se lei ha a che fare con un docente che, pur essendo appassionato, immagino all'inizio della propria carriera soprattutto, ha un pochino perso la spinta, un pochino perso lo sprint, è pur sempre un dipendente pubblico, è pur sempre assunto a tempo indeterminato, sicuramente non si può licenziare, no? Sono tutti questi pilastri del Jobs Act che sto elencando, perché poi dopo parleremo proprio di questo, alle 8:30 da 24 mattino. Ecco, lei ha di fronte un uomo, una donna di questo tipo che magari anche per ragioni personali è un po' poco motivato. Come lo motiva? Cosa gli dice? Io le racconto la mia esperienza. Si motivano le persone con l'esempio. E quindi, essendo sempre in prima linea, non chiedendo le cose, non imponendo le cose, ma facendole insieme. E questa è stata la ricetta attuata al Maiorana e le posso garantire che ha funzionato e ha funzionato benissimo. Quindi non come ordine di servizio, ecco, giusto per utilizzare un termine della pubblica amministrazione, ma con l'esempio, quindi coinvolgendoli, dimostrando loro che è possibile cambiare il loro modo di lavorare, anche per un discorso egoistico, se così possiamo dire, cioè per migliorare se stessi, per cambiare il modo di lavorare, per trovare nuove motivazioni. Ha funzionato bene. Secondo lei, se si lavora con più passione, poi è anche più facile svolgerla, la propria mansione e missione in questo caso? Assolutamente, bisogna ritrovare il piacere di andare a scuola, e il piacere di andare a scuola non solo da parte degli alunni ma anche di tutti gli operatori, e quindi vedere e affrontare la mattina quando si va a scuola come una bella giornata, una giornata dove si va ad insegnare ma anche ad apprendere, perché cosa importante, i nostri ragazzi hanno una creatività fuori dal comune, i ragazzi tendono di tutte le scuole italiane, e molto spesso la scuola uccide la creatività, quindi non facciamo venire fuori la creatività dei nostri ragazzi, ma nel momento in cui si attiva questo meccanismo di insegnamento-apprendimento, dove il docente diventa anche discente, soprattutto per alcuni aspetti legati alla tecnologia, alla realizzazione di contenuti, video, audio, eccetera, il rapporto cambia moltissimo, i ragazzi sentono più vicino il loro docente e inevitabilmente migliorano gli apprendimenti. Provare per credere. Ma non c'è dubbio che per la prima volta la riforma della scuola, anziché farsela in un ufficio, i tecnici del Ministero o di Palazzo Chigi, la stanno facendo gli italiani e le italiane, la stanno facendo le professoresse, i professori che vedono riconosciuto il loro ruolo, le maestre, i maestri, la fanno i presidi, i dirigenti scolastici, adesso si dice così, le famiglie, gli operatori. La riforma della scuola non la fa un politico che passa di lì, la riforma della scuola la fanno gli italiani. Ha sentito il Presidente del Consiglio, e lei da preside illuminato, visto che la sua scuola, il Maiorana, da quanti anni è preside, dirigente diciamo di questa scuola lei? Sei anni. In questi 6 anni ha ottenuto riconoscimenti uno dietro l'altro, snocciolati così, e la passione la sentiamo anche dal fatto che ha dato la sua disponibilità a essere qui a quest'ora a raccontarlo. Come valuta queste proposte della buona scuola di Renzi? Poi le dico come valutano lei gli ascoltatori. Perché qualcuno ci ha già scritto su quello che ha detto. Sì, come la proposta, il progetto, il piano La Buona Scuola ha dei contenuti decisamente interessanti. Adesso si tratterà, come ha detto il Presidente del Consiglio, passare alla fase 2, quindi mettere in pratica tutte in pratica, quindi creare i decreti, creare la legge, insomma creare la norma per mettere in pratica tutti i buoni propositi che ci sono nella buona scuola. Non sarà un'operazione semplice, perché occorrerà trovare le risorse e ahimè in questo periodo, quando si parla di risorse, poi molti progetti magari trovano delle difficoltà. Comunque trovo molto interessante che voi siate riusciti anche dal punto di vista delle risorse a far attrezzare tutti i ragazzi, gli allievi, sono 1200 nel suo istituto, ma poi voi avete stampato questi libri digitali non solo per il vostro istituto, si è creata una rete e a ogni famiglia coinvolta in questa rete i libri sono costati solo 50 euro, perché c'è la versione cartacea e poi la versione digitale gratuita. Come avete provveduto alla stampa, preside? Fino a un certo numero di copie abbiamo stampato all'interno della scuola, sempre al Maiorana di Brindisi. Quando il progetto è cresciuto e quindi è cresciuta anche la quantità di volumi da stampare, ci siamo rivolti all'esterno ed è migliorata sia la qualità ed è diminuito il costo del libro. Un libro costa mediamente 3,79 euro più IVA. Quindi fantastico. Sono veramente innovazioni fantastiche, perché liberano soprattutto quelle famiglie, si parla sempre di povertà, e questo è un intervento concreto con 3-4 figli, da una spesa che veramente si fa sentire in maniera molto pesante a settembre. E le dicevo, la valutazione degli ascoltatori su quanto lei ha illustrato finora. C'è Alessandra che ci scrive un sms al 349-238-6666 e dice: benissimo, le lezioni non più frontali, e anche benissimo avere buoni insegnanti, perché la buona scuola la fanno i buoni insegnanti, secondo i nostri ascoltatori. Per mio nipote voglio non dover più preparare bigini di storia, perché la sua prof di storia insegna che 6 milioni di ebrei sono stati uccisi perché comunisti, né passare pomeriggio a spiegare differenze tra aggettivo e pronome. Poi però facciamo tutte le lezioni non frontali del mondo, ma in pratica questa signora ci dice: voglio un intervento anche sui contenuti. Beh, lì mi sembra una situazione un po' più complessa, come si interviene sui contenuti. E poi ci dice questa Laura, ci chiede dove l'abbiamo stanata, un'altra ascoltatrice che ci scrive a quest'ora: vogliono un docente così. Ecco, se lei ha in mente di farsi clonare, però le posso dire una cosa, preside, tra poco la saluto. Sì. Io sono stanca di dovermi collegare sempre con la Puglia. Sono rimasta pochi giorni qui, abbiamo affrontato il tema scuola eccellenze. Abbiamo avuto due professori, che uno si chiama il professor Daniele Manni, uno si chiama Daniela Boscolo. Li voglio ricordare sempre per quella cosa che io spero che in Italia, invece di trovare ste targhe ai Savoia, un giorno si trovino le vie intitolate a persone che hanno fatto molto per i giovani, non perché auguri loro una, come dire, premorienza, ma perché sarebbe meritorio e stimolante per i ragazzi anche rifare la toponomastica delle città. Ebbene, questi due professori appartengono non solo ai talenti, ma alla lista dei migliori professori del mondo. Sono 50, verranno premiati a Dubai, cioè verrà incoronato anche con $1 milione, anche con un premio in denaro, il migliore in assoluto. Ma questi due professori ci hanno spiegato e ci hanno raccontato una scuola eccezionale, e uno di loro era proprio pugliese, insegna in un istituto tecnico di Lecce. Io sono stanca di dovermi collegare con la Puglia, naturalmente parlavo tra il serio e il faceto, nel senso che veramente state producendo delle eccellenze scolastiche meravigliose, e poi state smontando anche un altro luogo comune, quello che l'eccellenza si faccia solo nei licei, perché in continuazione ci colleghiamo con istituti tecnici. Anche questo è un bellissimo segnale, signor preside. Il Majorana di Brindisi ha aperto la strada, dunque continueremo con cercando di fare questa riforma dal basso, letteralmente, cioè con la passione di voi presidi e studenti. Intanto grazie per a voi. Salvatore Giuliano, preside dell'ITIS Majorana di Brindisi, è stato con noi fino a questo punto. Poi vi presenteremo, vi porteremo in un posto lontano dove c'è un italiano che si è messo in luce per un'altra eccellenza. Andremo infatti insieme a Bangkok. 24 mattino. Un buongiorno, sì, che non ci logora salutarci due volte. Allora, buongiorno un'altra volta da Irene Zerbini, per voi eroici alla guida, al volante a quest'ora. È la giornata del rientro a scuola. Abbiamo affrontato questo tema, ma la scuola è legata a doppio filo, inevitabilmente, all'innovazione, alla costruzione di una società diversa. E lui ci è riuscito a realizzare non solo il suo sogno, ma a creare, pensate, una piattaforma stile Amazon nel sud-est asiatico, che che dà lavoro già a 600 dipendenti. E non è che l'abbia creata negli ultimi 10 anni, 20 anni, negli ultimi 2, si è trasferito a Bangkok 2 anni fa. È veramente incredibile quello che Riccardo Basile è riuscito a fare. Intanto buongiorno Riccardo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Come si chiama la sua creazione, la sua Amazon del sud-est asiatico? Si chiama Lazada, in realtà io sono il capo di Lazada in Thailandia, sono l'amministratore delegato, però è parte di un sistema più grande, siamo presenti in 6 paesi nel sud-est asiatico e quindi le 600 persone in Thailandia sono parte di un team più grande di circa 3.000 persone in tutta la regione. E ci dà il sito? Ci dà l'indirizzo che proviamo a ordinare. Lazada.co.th. Ripeta Lazada. Lazada.co.th. Quanti anni ha lei, Riccardo? Io 35. Quindi si è trasferito lì a 33 anni ed è riuscito a creare questa Lazada. Ma visto che sembra una cosa creata dal nulla, quasi come un fungo, no? Che dopo la pioggia spunta, in realtà naturalmente c'è stato un lavoro preparatorio, ci sono stati anche dei fondi che sono arrivati a livello istituzionale, perché il nostro Riccardo Basile, oggi nostro ospite, diciamolo, è laureato alla Bocconi, era un operatore finanziario, qualche contatto l'aveva per farsi finanziare, un'idea. Non è la WhatsApp quella nata in garage, possiamo dire così? Sì, no, è sicuramente un progetto che è partito ambizioso. Io lavoravo a Londra, in realtà non in finanza ma in consulenza, da una città che si chiama McKinsey, e poi da lì io con altri colleghi siamo venuti qua, abbiamo ricevuto dei finanziamenti per iniziare. In realtà, pur con grandi ambizioni iniziali, in realtà siamo andati oltre quello che potevamo immaginare. Adesso abbiamo 2 milioni di visitatori sui nostri siti ogni giorno, abbiamo appunto più di 3.000 dipendenti, abbiamo 9 milioni di fans su Facebook, insomma siamo una grande azienda, siamo anche famosi nella regione e quindi siamo stati anche molto fortunati ad avere dei finanziatori che hanno creduto in noi all'inizio e poi ci hanno supportato nel tempo. Ma io mi chiedo, quando avete iniziato il setup, è stato difficile? Beh, il setup è stato molto difficile per ovvie ragioni, insomma, la maggior parte di noi erano europei, siamo arrivati i primi giorni, eravamo in un internet caffè, eravamo in 10 persone, puoi immaginare da 10 persone a più di 3.000 qual è stato il viaggio, il percorso che abbiamo avuto. Ovviamente c'erano differenze culturali e poi molti di noi non conoscevano neanche internet così bene. Io appunto lavoravo facevo il consulente per le banche, per i fondi di investimento, quindi è stato un grande percorso. Direi che quello che ha aiutato molto è stato innanzitutto molto lavoro e anche un mercato molto, molto bello, insomma l'Asia sta crescendo molto e i paesi dove operiamo sono paesi che sono in cui è facile fare business. Perché in Italia non sarebbe stata possibile la stessa cosa? Allora, secondo me sì e no, perché ovviamente l'Italia è insomma, il mercato del lavoro più difficile, quindi le ragioni per il no sono un po' di strutture, insomma, il mercato del lavoro è più difficile. Penso che ci sia anche un tema di un po' sfiducia, è più difficile convincere le persone a lasciare il loro posto di lavoro a salario garantito e buttarsi in un'iniziativa ovviamente rischiosa come una start-up. E voi pagate? Per invece, secondo me ci sono grandi opportunità in Italia. Io il mio sogno è poi di riuscire a replicare quello che stiamo facendo qua o qualcosa di simile in Italia, perché le opportunità in internet sono fantastiche e l'Italia è molto indietro. Quindi secondo me, pur con in presenza di difficoltà maggiori, secondo me si può fare tanto in Italia. Nell'e-commerce. Lei è uno dei più anziani con i suoi 35 anni. E quanto pagate? Come pagate i vostri dipendenti? Avete naturalmente diverse categorie. Sì, no, noi allora, ovviamente l'azienda oramai è molto grande, secondo me gli stipendi sono ovviamente un po' inferiori agli stipendi in Italia, ma non troppo. La Thailandia è un paese del secondo mondo, non è terzo mondo, quindi i nostri ragazzi, quelli più brillanti, quelli più che hanno posizioni più importanti, hanno stipendi che sarebbero molto attraenti anche in Italia. Ovviamente poi abbiamo anche risorse più che fanno lavori più operativi e quindi questi sono pagati meno, ma comunque a livelli non lontani da quello che si potrebbe avere in Italia. Ovviamente c'è la differenza dal punto di vista fiscale, le tasse sul lavoro sono molto più basse, è molto più facile assumere. Poi insomma il fatto il mercato del lavoro è molto mobile, bisogna tenere presente che in Thailandia il tasso di disoccupazione è l'1%, quindi la gente si muove molto, molto velocemente da un'azienda all'altra e quindi è facile creare un team molto in fretta. Ma quando lei assume, diciamo così, e prende questi ragazzi giovani con le diverse competenze, quello che più li motiva è lo stipendio, questo stipendio superiore alla media thailandese che voi date? Sì, no, sicuramente no, sicuramente no. Penso che le tre cose su cui noi fondiamo, su cui la Zara è fondata e che abbiamo imparato è innanzitutto l'importanza di dare ai giovani la possibilità di prendere responsabilità e di crescere in fretta. Questo è uno, e poi magari aggiungo qualche dettaglio dopo su questo. Secondo, l'importanza di avere un grosso bilanciamento tra il lavoro e la vita personale e creare nell'ufficio un ambiente quanto più possibile divertente e che risponda un po' alle esigenze di ricreare quanto più possibile una comunità vicino alla famiglia, vicino agli amici, invece che un mondo asettico difficile. E il terzo elemento è un po' il terzo elemento qualificante di Lazada, è il fatto che noi operiamo appunto nell'e-commerce, quindi fast growth industry, un'industria che cresce molto in fretta. E quindi c'è la possibilità di evolvere all'interno dell'azienda perché l'azienda crescerà. Questa prospettiva. Cresce innanzitutto perché non è un ambiente poco gerarchico, hai la possibilità di avere una vita personale soddisfacente e la possibilità poi anche di essere in un'azienda che cresce 20-30% ogni mese. Mi fa un po' impressione quello che lei sta dicendo, perché ha anticipato Riccardo Basile quello che sarà la tematica di oggi. Noi parleremo infatti di Jobs Act e parleremo di politiche a sostegno del lavoro giovanile, soprattutto perché in Italia c'è una disoccupazione giovanile che ha toccato il 42%, negli ultimi anni si sono persi 1.600.000 posti di giovani, è incredibile. Ebbene, quando si pensa invece a quelle che sono le proiezioni della crescita anagrafica, nel 2030 bisognerà litigarseli i lavoratori con competenze adeguate, perché abbiamo un invecchiamento della popolazione che ci porterà a un fabbisogno milionario dal punto di vista delle unità di lavoratori. E per litigarsi questi lavoratori, questi talenti, anche fossero disposti ad andare all'estero, bisognerà puntare sugli elementi che li attraggono. E quali sono gli elementi che attraggono un lavoratore? Perché sono stati fatti sondaggi su 200.000 persone. Uno può pensare il salario come prima voce, invece no, il salario è solo all'ottavo posto. È una domanda che giriamo anche a voi. Se foste disposti, se vi fosse proposto, insomma, di valutare un cambio di professione o di lavoro, quali sono gli elementi che prendereste in considerazione? Intanto, Riccardo Basile, amministratore delegato di Lazada Thailandia, grazie per il suo tempo con noi. Grazie. Prego, grazie mille, arrivederci. Buongiorno, arrivederci. Naturalmente, auguri per questa avventura. Lui ha detto che rientrerà e la creerà qui e noi aspettiamo proprio questo. Ora diamo la linea al GR, ci ritroviamo dopo con la rassegna stampa e con Giulia Crivelli. 1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. È il primo aprile. pesce d'aprile. Buongiorno, ben ritrovati. E tra poco ci sarà Giulia Crivelli che leggerà i giornali per questa rassegna stampa. Alessandro Milan ci sarà da domani. Noi siamo sempre avanti con i programmi, abbiamo anticipato un giorno. Buongiorno Giulia. Buongiorno, buongiorno Irene. Ben ritrovata. Per questo mercoledì 7 gennaio si torna a scuola e si parlerà anche di scuola in qualche modo nel corso di 24 mattino. In realtà parleremo di Jobs Act e cercheremo di capire, a fronte di 9 milioni di persone che si trovano in sofferenza lavorativa, cioè non solo disoccupati ma anche persone che hanno dei lavori non regolarizzati, non regolari e soprattutto saltuari e poco remunerati. In Italia l'emergenza lavoro in questo pianeta ormai diventato frammentato, cruciale, si può risolvere attingendo anche a quella che è la riqualificazione, la formazione continua, non importa quanti anni hai. Certo, per fare questo serve una rete di servizi che altrove c'è, all'estero c'è, e che possa riqualificare e rendere adeguato a quello che il mercato richiede sempre le competenze delle persone, per garantire questa flessibilità che se no rimane solo sulla carta e se no rimane solo un punto dolente. In pratica, quando il lavoro si perde o termina, visto che è sempre più precario, chi ci aiuterà nel 2015 a trovarne un altro? Come si può fare? Quali le reti di servizio a cui attingere? Di tutto questo discuteremo dalle 8:30. Vogliamo sentire anche i vostri stimoli, le vostre opinioni. È richiesto un cambio di mentalità, non si parla d'altro. Quale sarebbe la vostra ricetta per il Jobs Act? Vi abbiamo già attivato nei giorni precedenti e continueremo e concluderemo oggi. 349-238-6666, questo è il numero degli sms. In primo piano invece sui giornali, Giulia? Ma sicuramente questo martedì grigio dopo il lunedì nero finanziario, perché le borse non si sono del tutto riprese, e poi ancora la questione del decreto fiscale, i funerali di Pino Daniele, molta cronaca ma anche tanti approfondimenti come sempre. Ti seguiamo con grande interesse, a dopo Giulia. A dopo. E allora iniziamo dal Sole 24 Ore, perché le notizie appunto di, le avete sentite anche nel GR sulla giornata di ieri, il primo martedì dell'anno pieno, insomma, a scambi pieni nelle borse. Non è stato il martedì del recupero dopo il lunedì nero, anche se è andata un pochino meglio. E quindi il Sole 24 Ore titola: il petrolio in caduta libera gela ancora le borse e l'euro, perché come avevamo detto ieri, questo percorso di decrescita del prezzo del petrolio e anche dell'euro sul dollaro continua. È molto interessante, perché è così sintetico lo schema che c'è sulla prima pagina del Sole 24 Ore: 16 anni di moneta unica, con l'indicazione del 4 gennaio del 1999, quando l'euro fece il suo esordio, non nei nostri portafogli ma in borsa, sui mercati valutari. Allora veniva scambiato a 1,1740 sul dollaro. Poi c'è stato un picco il 22 aprile del 2008, forse qualcuno se lo ricorderà. In quel momento l'euro valeva quasi 1,6, e poi adesso un altro, abbiamo visto la discesa, siamo quasi tornati ai livelli iniziali, perché ieri la quotazione finale è stata di 1,1931 sul dollaro. E l'analisi di Maximilian Cellino che trovate a pagina 3, per l'euro torna al prezzo del debutto. Dal Sole 24 Ore anche un approfondimento di Davide Tabarelli sulla questione del prezzo del petrolio. Abbiamo visto ieri quello di Roberto Bongiorni, che appunto spiegava come forse è un po' sfuggito di mano questo gioco al ribasso di cui ha preso, si dice, si può dare la responsabilità ai paesi dell'OPEC, in particolare all'Arabia Saudita, che ha cercato di contrastare così l'ascesa degli Stati Uniti come grande produttore di petrolio grazie alla shale, sapete, alle nuove tecniche di estrazione. Però forse appunto il gioco è sfuggito di mano, le analisi continuano, e soprattutto vedremo come andrà oggi e nei prossimi giorni il dollaro. Un'analisi molto interessante di Carlo Bastasin da un convegno che c'è stato a Boston di grandi economisti, e Piketty, sapete, Thomas Piketty, l'economista francese che ha scritto questo libro che si intitola Il Capitale, un titolo insomma che riecheggia un titolo ben più famoso, un libro economico ben più famoso, ma anche questo è diventato molto famoso perché è una durissima critica alle teorie economiche più recenti e soprattutto agli economisti. E quindi Piketty, ancora una volta da Boston, dice, il titolo dell'articolo di Carlo Bastasin è: Piketty chiama alle armi gli economisti, ma soprattutto chiede a tutti quanti un grande mea culpa per le previsioni sbagliate o magari quelli proprio non fatte. Il Corriere della Sera apre con un intervento di Alexis Tsipras, che è in realtà uno di quegli articoli syndicated, cioè l'hanno pubblicato in Europa molti quotidiani, in Italia il Corriere della Sera. Vi leggo le prime righe perché sono una vera e propria dichiarazione di intenti, perché la mia impressione, quella di molti, è che davvero Alexis Tsipras e il suo partito Syriza, in questi giorni che precedono le elezioni che si terranno in Grecia il 29 gennaio, sta veramente cercando di togliere questa paura che si è diffusa, che Tsipras e il suo partito vogliano far uscire la Grecia dall'euro, addirittura dall'Unione Europea. E allora il titolo: la mia ricetta per la Grecia non danneggerà la UE. Vi leggo appunto le prime righe, poi l'articolo continua a pagina 28. Syriza incarna l'aspettativa di un mutamento di rotta non solo per la Grecia ma per l'intera Europa. Non c'è nulla da temere, non vogliamo il crollo ma la salvezza dell'euro, e per ottenere questo risultato non serve proseguire le politiche fallimentari di austerity ma tornare a crescere e cancellare la maggior parte del valore nominale del debito pubblico. E questa è già, insomma, questa idea della cancellazione del valore nominale del debito pubblico è una cosa che comunque probabilmente farà tremare le borse e i polsi, e forse anche le borse, tanto quanto la paura che lui cerca di scongiurare, che la Grecia voglia appunto uscire dall'eurozona o dall'Unione Europea. La fotonotizia del Corriere della Sera è però dedicata alla partita di ieri, il partitone di ieri sera era Juventus-Inter, che lo sapete è finita 1-1, l'Inter, e quindi la notizia: l'Inter ferma la Juve, il Milan cade in casa. La foto è molto spettacolare, un contrasto tra Kovacic e Vidal. La prima pagina della Repubblica invece ha un titolo diverso, anche una fotonotizia diversa. Il titolo è ancora una volta, come ieri, dedicato al famoso decreto della discordia, potremmo chiamare quello che contiene quel famoso codicillo che depenalizza dal punto di vista penale l'evasione oltre il 3% dell'imponibile. Viene chiamata norma salva Berlusconi perché salverebbe Berlusconi dalla condanna ormai definitiva per il processo sui diritti Mediaset. Ebbene, Repubblica titola: Renzi, due punti, Berlusconi sconterà tutta la pena, condono il 20 febbraio. I due fatti, al di là dei vari commenti e retroscena, sarebbero questi: cioè che il decreto non è più slitta, appunto la sua approvazione con eventuali correzioni, slitta al 20 febbraio, quindi tra più di un mese. E poi soprattutto Renzi si è impegnato a far sì che qualsiasi cosa sia contenuta in questo decreto comunque non toccherà i procedimenti in corso, e quindi anche quello per il quale è stato condannato Berlusconi. Vedremo, perché appunto manca un mese e più, e vedremo, possono succedere tante cose. Sembra che ogni giorno qualcuno cambi idea. La fotonotizia dedicata a quello che sta succedendo a New York, a questa protesta che continua, a questo scontro che continua tra il corpo di polizia di New York, che conta 34.000 agenti, e il sindaco della città Bill de Blasio. Ricorderete, dopo l'uccisione dei due poliziotti ai funerali, tutti i poliziotti presenti si erano girati, avevano girato le spalle quando aveva preso la parola il sindaco de Blasio. È stato il loro modo di manifestare lo scontento per Bill de Blasio. E adesso Vittorio Zucconi ci racconta un po' appunto quello che continua, questo scontro che continua a New York. Niente manette, lo sciopero dei poliziotti di New York. Vi leggo le prime righe, poi l'articolo continua pagina 14. C'è anche un intervento di Jen Fitzgerald, che è una scrittrice saggista e anche figlia di un poliziotto che lavora a New York, e racconta tutte le sue contraddizioni, la sua difficoltà a prendere una posizione netta su questa vicenda, perché gli abusi della polizia sono documentati, ma sono anche documentate l'azione positiva, naturalmente, appunto di questi 34.000 poliziotti che cercano di mantenere l'ordine in una città gigantesca come New York. Oltre il grande muro blu, come Frank Serpico chiamava The Force, la polizia di New York, i 34.000 soldati che combattono ogni giorno la guerra nelle strade, vivono chiusi nell'assedio del rancore e del risentimento contro tutti. E naturalmente questo non fa bene al clima della città, ma in generale non fa bene anche a quei focolai di tensioni razziali che sempre ci sono, sempre sembrano esserci e pronti appunto a riaccendersi negli Stati Uniti e non solo a New York naturalmente. La prima pagina della Stampa, anche in questo caso la scelta è sulla riforma del fisco, quindi su quel decreto della discordia. Fisco, la riforma il 20 febbraio, anche qui nell'occhiello, nel sommario la Stampa riporta la dichiarazione di Renzi, Berlusconi sconterà la pena fino all'ultimo giorno e intanto, questa la Stampa lo segnala, cosa che Repubblica non ha fatto direttamente nel sommario, è polemica nel PD, perché la cosiddetta minoranza del PD ieri ha approfittato di questo ennesimo passo falso ha approfittato per l'ennesima volta di un passo falso di Renzi per attaccare appunto il Premier. La fotonotizia molto originale, perché dopo 20 anni la NASA ha ripubblicato, migliorandola grazie a tutte le tecnologie che sappiamo che si possono usare per migliorare le fotografie, l'immagine dei pilastri spaziali scattata appunto 20 anni fa dal telescopio Hubble. Il titolo, la creazione come non l'abbiamo mai vista, è veramente una foto incredibile, sembrano, non so, dei frattali in uno sfondo blu stellato, però è una foto vera, non è una foto creata al computer. Quindi la foto ad alta definizione dei pilastri della creazione per festeggiare 25 anni del telescopio spaziale Hubble, appunto, che questa foto l'aveva scattata 5 anni dopo essere entrato in funzione. L'articolo che poi trovate a pagina 27 è di un grande divulgatore, Giovanni Bignami, il miracolo di uno scatto perfetto. Naturalmente su tutti i giornali c'è anche la cronaca dei doppi funerali annunciati di Pino Daniele, con tutti i commenti, le polemiche veramente spiacevoli, dolorose da leggere all'interno della famiglia, quello davvero lo trovate su tutti i giornali. Il Messaggero, anche in questo caso come la Stampa e la Repubblica, titola sulla riforma del fisco, modifica alla riforma, Renzi rinvia l'ok al 20 febbraio, così naturalmente niente veleni sul colle, perché sapete che fino a prova contraria il 14 gennaio, cioè tra pochissimi giorni, dovrebbero arrivare queste, che è la data in cui finisce il semestre di presidenza della UE dell'Italia, dovrebbe arrivare ufficialmente le dimissioni di Napolitano, del capo dello Stato Napolitano, e quindi si avvia appunto l'elezione del suo sostituto, e perciò da questo si deduce che questo rinvio di Renzi è per sgombrare il campo da questo problema, da questo elefante nella stanza, come dicono gli americani, che è il decreto sulla riforma del fisco, per poi riparlarne dopo, perché in questo momento è più importante un'intesa, si sottintende, con Berlusconi e Forza Italia. Vi segnalo dalla prima pagina del Messaggero anche un approfondimento sull'inchiesta Mafia Capitale di Sara Menafra, che poi trovate a pagina 12, immigrati, lavori pubblici e servizi, al setaccio i 200 appalti di Buzzi, sapete un po' il galantuomo, ex terrorista, ha trascorso anche un periodo in prigione, poi si era così agli occhi di tutti riabilitato, in realtà abbiamo scoperto da questa inchiesta che era il deus ex machina di tutti questi traffici della capitale, molti dei quali avevano a che fare con la cooperazione, con gli interventi nel sociale, e quindi appunto al setacci 200 appalti che Buzzi riceveva dal comune o da altre istituzioni. In primo piano. Buongiorno, ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali. Dopo aver visto quelli principali, vi segnalo quella prima pagina dell'Avvenire, con l'altra faccia della crisi, perché certo una parte della crisi è il crollo delle borse o il crollo del prezzo del petrolio, che poi per alcuni è un vantaggio, per alcuni è uno svantaggio, e l'andamento delle valute, poi c'è l'altra faccia che è quella della crisi del lavoro, e allora l'Avvenire sceglie di titolare su questo perché l'occasione è che oggi al Ministero dello Sviluppo Economico riparte il confronto su tutte le crisi e ci sono in ballo, spiega l'Avvenire, 140.000 posti, ferite da sanare, questo è il titolo. Lavoro, 153 tavoli per battere la recessione. Sul tavolo ci sarà anche la questione degli sfratti, di cui ha parlato anche Irene settimana scorsa, gli sfratti da Roma, Milano e Napoli. Ma vi segnalo dalla prima pagina dell'Avvenire un commento a una notizia che ieri dava la Stampa, di questo intervento che ha fatto all'università di Al-Azhar al Cairo il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi. E qui l'intervento di Riccardo Redaelli commenta questa correzione coraggiosa iniziativa di Al-Sisi e la chiama la scossa ad Al-Azhar. Vi leggo le prime righe, perché in questi giorni, in cui ieri abbiamo visto tutta la questione del nuovo libro, legata al nuovo libro di Michel Houellebecq, che riguarda l'islamizzazione presunta dell'Europa, o la radicalizzazione dell'Islam che cerca di conquistare l'Europa, e quindi di, appunto, di Islam radicale, è giusto continuare a parlare. E allora scrive Riccardo Redaelli: un discorso fermissimo che lascia poco spazio alle interpretazioni ambigue. Pochi giorni fa il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, parlando dinanzi ai vertici religiosi dell'università Al-Azhar, il maggior centro teologico di tutto il mondo sunnita, in occasione del nuovo anno e della celebrazione della nascita di Maometto, ha pronunciato parole molto nette sulla necessità di una vera e propria rivoluzione religiosa, uno sforzo diretto contro le cattive interpretazioni dell'Islam che incitano alla violenza e alla chiusura dinanzi alle altre comunità. Al-Sisi si è anche chiesto come sia possibile che la religione islamica venga percepita come fonte di ansia, pericolo, morte e distruzione da parte del resto del mondo, o come vi sia chi, fra i musulmani, pensi che la sicurezza possa essere raggiunta solo eliminando gli altri 7 miliardi di abitanti del mondo. E passiamo alla prima pagina di Libero. Libero, come ieri, si concentra su questo decreto sul fisco, della riforma del fisco. Il fisco contro Renzi, così aiuti gli evasori. Il titolo è legato a un documento che il Libero definisce esclusivo dell'Agenzia delle Entrate, che avrebbe scritto al governo spiegando come questo decreto sui reati tributari farebbe perdere 16 miliardi. Il Premier però ha difeso questo decreto, quando ha spiegato anche che l'approvazione è rimandata al 20 febbraio, è una norma sacrosanta. Dalla prima pagina di Libero, poi se avremo tempo lo vedremo in dettaglio, anche se, come direbbe Alessandro Milan, questa è una notizia da mani sul volante: i politici più pagati e spreconi. Un'analisi fatta da Franco Bechis, che spiega come un eletto in Calabria o Sicilia sia 10 volte più caro di un trentino, 8 volte più caro di un veneto e 6 volte più caro di un toscano. E poi appunto lo vedremo magari nel dettaglio. Dalla prima pagina del Giornale invece vi segnalo anche qui il titolo dedicato alla riforma del fisco: la mossa di Renzi, uno schiaffo alla sinistra, così scrive il Giornale. Renzi ha rivendicato la norma sulla microevasione, sapete che così viene definita appunto l'evasione sotto il 3% dell'imponibile. Nessuno stralcio, approveremo tutto a febbraio. Vi segnalo però l'intervento di Vittorio Feltri, che si riferisce a quell'intervista di cui abbiamo letto una piccola parte ieri, l'intervista rilasciata da Mario Monti alla Stampa. E allora scrive Vittorio Feltri: il titolo dell'intervento è "Se Monti si vanta di aver reso l'Italia ingovernabile". Vi leggo le prime righe e poi continua a pagina 6. Chiunque abbia letto l'intervista rilasciata da Mario Monti ad Andrea Malaguti della Stampa, vincendo il torpore che essa provocava, si sarà chiesto perché il professore si sia deciso a raccontare una vicenda vergognosa che lo ha visto protagonista. Monti ha detto, papale papale, di aver fondato, dopo la propria esperienza di Presidente del Consiglio, Scelta Civica nel 2013, allo scopo di rubacchiare voti tanti al centrodestra e pochi alla sinistra, e impedire così che uno dei citati schieramenti avesse la forza di costituire una maggioranza in grado di determinare le sorti del Paese. In particolare, l'ex Premier e senatore a vita ha affermato che in virtù del 10% di suffragi raccolti da Scelta Civica, la coalizione imperniata sul PDL non ebbe un numero sufficiente di parlamentari per eleggere Berlusconi capo dello Stato, cosa di cui l'illustre bocconiano mena palesemente vanto. Era il caso che rivelasse tutto ciò, ammesso e non concesso che sia vero? Secondo noi, egli avrebbe fatto meglio a tacere, se non altro in omaggio alla propria reputazione di persona seria, anzi sobria. Infatti fu il cavaliere in anni remoti e indimenticabili a brigare affinché Monti scendesse dalla cattedra e andasse a sedersi sulla poltrona lussuosa di commissario europeo. Era il riferimento a quando appunto il commissario Monti divenne commissario europeo all'antitrust. Ve lo leggo perché credo che, insomma, Vittorio Feltri interpreti la reazione di molti, dicendo appunto: ma c'era veramente bisogno di rivelare a posteriori degli scenari che poi sono un po' tutti da dimostrare? Comunque, questo era Vittorio Feltri sul Giornale. Il Manifesto, sfratto matto. L'accenno naturalmente è a questa entrata in vigore del decreto che ha bloccato la proroga degli sfratti, e quindi scrive il Manifesto: e allarme per l'emergenza casa nelle grandi città. Gli assessori alle politiche abitative di Roma, Milano e Napoli chiedono al governo di ripristinare subito la proroga degli sfratti. Si rischia una situazione sociale ingestibile. Ma il ministro Lupi, che è il ministro per le infrastrutture, quindi in qualche modo il ministro competente, gira le spalle e sdrammatizza: avete i mezzi per intervenire. Dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, il titolo principale è anche in questo caso quello sul fisco, con un titolo forte come quello del giornale di Libero: impunità pure per l'Ilva, un decreto tre porcate, perché in questo decreto c'è anche appunto un accenno a tutta la questione dell'Ilva e alle bonifiche, e poi naturalmente c'è tutta la parte sulla riforma fiscale. Vi segnalo che da oggi, a chi può interessare, partono le primarie del Fatto, cioè i lettori del Fatto sono invitati a votare il loro candidato a presidente. E poi magari dopo ne leggeremo una parte, c'è questa inchiesta di Gianni Meletti che poi continua a pagina 11, intitolata Dentiera Power, è un capitalismo per vecchietti, rottamare, non scherziamo, da Bazzoli a De Benedetti tutti i veterani restano in sella allegramente, spazzata via la generazione di mezzo, e poi appunto magari lo vedremo un pochino più in profondità. Naturalmente la prima pagina della Gazzetta dello Sport è dedicata alla partita di ieri, definita la partitissima di Torino, 1-1, l'Inter c'è, Juve stop, e la foto è quella di Vidal, un po' come sul Corriere della Sera, che festeggia dopo, sopra c'è la foto di Vidal, scusate, che festeggia dopo l'1-0, e poi c'è la foto di Mauro Icardi che esulta per il pareggio. E poi anche un articolo sul Gran Sassuolo, Barba Zaza gela al Milan, ai ai Inzaghi, questo è il titolo per l'altra partita che c'è stata ieri, in cui appunto il Sassuolo ha battuto il Milan. Ma veniamo alle pagine interne dei quotidiani e torniamo sulla quella del Sole 24 Ore. Con una, comunque, visto che abbiamo parlato di lavoro, di crisi del lavoro, ci sono anche segnali, c'è qualche segnale positivo. Per esempio Roberto Turno intervista Massimo Scaccabarozzi, che è presidente di Farmindustria, e che spiega: svolta nell'industria farmaceutica, l'occupazione è tornata a crescere. Dopo 90 mesi di calo, il 2014 ha registrato un più 1%. È un piccolo aumento, ma è comunque un segnale di fiducia nel quale, dice Scaccabarozzi, crediamo. Chiede sulla difficile questione degli investimenti che le aziende straniere potrebbero fare in Italia, o fanno o magari non fanno più. Perché investire da noi se siamo un terreno così ostile per produrre solo generici? Abbiamo una grossa parte di produzione di farmaci, risponde Scaccabarozzi, a brevetto scaduto, ma anche un'alta percentuale di nuovi farmaci. Le nostre fabbriche sono sempre più specializzate. Dove c'è massa critica si intende a mantenerle e ottimizzarla. Se il paese garantisce la stabilità, la massa critica resta e cresce, qui in Italia, ma senza più resistenze burocratiche. L'aspetto principale, posso rivelarle, delle richieste dei CEO, degli amministratori legati delle aziende farmaceutiche a Renzi, a partire dal potenziamento dell'ente regolatorio l'AIFA. Quindi anche in questo caso un appello a snellire la burocrazia, che è forse veramente il principale ostacolo alla crescita delle aziende italiane e all'arrivo in Italia di aziende straniere. Su un altro segnale positivo, dalla pagina 11 di Imprese e Territorio, un lungo articolo di Andrea Biondi che spiega come sia stato un Natale da record per l'e-commerce. Secondo il consorzio delle aziende del settore Netcom, oltre 10 milioni hanno comprato sul web e c'è stato un boom degli acquisti da dispositivi mobili, quindi smartphones, tablet, eccetera. I prodotti più acquistati sono stati l'abbigliamento, il 14% degli acquisti, seguiti da informatica elettronica, editoria, generi alimentari e poi altri comparti, mentre tra i servizi, come capita ormai da molti anni, i servizi più acquistati sono quelli legati al turismo. La prima pagina di Finanza e Mercati, dalla copertina di Finanza e Mercati vi segnalo un articolo di Monica D'Ascenzo che prende spunto da uno studio di Deloitte e che analizza i ricavi, ma anche gli indici di redditività delle aziende del lusso. Il titolo: lusso tiene, spera nel mini euro, perché sapete che la maggior parte delle aziende della moda e del lusso hanno un'altissima percentuale di export, e quindi tra l'altro gli Stati Uniti sono per molte il primo mercato, e se non sono gli Stati Uniti sono magari in questo momento i mercati asiatici, le cui monete, la Cina in primis, sono legate al dollaro, e quindi naturalmente un riequilibrio del rapporto tra euro e dollaro favorisce le esportazioni e quindi queste aziende. L'articolo continua poi a pagina 18 di Finanza e Mercati, e ci sono altre due notizie legate al settore. Una è su Italia Independent, il marchio di occhiali fondato da Lapo Elkan e Andrea Tessitore, e ora l'idea con questo nuovo collezione AI è di entrare nel mercato degli occhiali low cost cost, che poi comunque sarebbero intorno ai 100 euro, quindi non proprio low cost, però una novità rispetto a un'azienda che vendeva occhiali molto più cari. E poi una possibile IPO, quella di Stefano Ricci, ce la racconta Carlo Festa. Stefano Ricci è un marchio di Firenze che esporta credo più del 90%, è un marchio posizionato nel segmento del lusso maschile e adesso appunto starebbe pensando a un IPO, soprattutto per aumentare ancora di più lo sviluppo all'estero. Un altro approfondimento legato a un'analisi, questa è una consuetudine del Sole 24 Ore a ogni inizio anno, l'analisi dei bilanci fatta appunto dal Sole 24 Ore con i conti dei grandi gruppi al 30 settembre, perché sapete che non è ancora, insomma, manca ancora l'annuncio dell'ultima trimestrale, quindi relativo ai 9 mesi, è un'analisi svolta in collaborazione con Mediobanca, e qui purtroppo la notizia è un po' meno buona, cioè l'utile corrente dell'industria è sceso del 4%. Naturalmente è una media, quindi ci sono anche aziende che sono andate meglio, però ci racconta Giuseppe Oddo, il settore manifatturiero continua ad accusare segni di affaticamento con ricavi e margini in calo. C'è un'altra questione di cui abbiamo parlato molto nelle ultime settimane, anche nelle rassegne europee del sabato, ed è quella del movimento Pegida, che è un movimento anti-immigrazione che sta prendendo piede in Germania. Si riuniscono le persone che appartengono, simpatizzano con questo movimento ogni lunedì a Dresda, e ora sembra che i politici abbiano capito che forse non va preso troppo sotto gamba. E allora il reportage Maria Serena Natale da Berlino, Germania, da Birhof a Schmidt, in campo contro le marce dell'odio, così vengono definite queste manifestazioni di Pegida, e cresce anche il pressing di Angela Merkel, che rischia però di influenzare i negoziati in Europa, perché Angela Merkel di fatto ha parlato anche di questo nel suo discorso di fine anno, quindi tutti hanno capito, tutti hanno sottolineato che forse con un po' di ritardo, però anche la cancelliera si è accorta del pericolo di questo movimento di estrema destra, loro si definiscono patrioti, che però continua ad allargarsi. Tra l'altro è l'organizzatrice e portavoce di questo fronte anti-islam, è una donna, Katrin Oertel, vedete il suo volto tra l'altro quasi angelico sul Corriere della Sera, e però appunto il movimento continua a crescere, non si capisce bene se abbia vere e proprie ambizioni politiche o voglia restare una specie di movimento di opinione così organizzato più o meno spontaneamente. Della questione si occupa anche il Foglio in prima pagina. La Germania non sembra più tanto riunita, vedi le proteste contro l'Islam. E appunto c'è questo articolo di Andrea Faticati, una giornalista molto esperta di questioni tedesche, credo sia anche metà tedesca, e il sommario: nei vecchi Länder le proteste del movimento Pegida non attecchiscono, a Est vanno forte ma c'è chi si oppone, e secondo Andrea Faticati appunto la Merkel ha parlato, ma ha parlato in ritardo. In primo piano. Rieccoci ancora, buongiorno da Giulia Crivelli. Eravamo sulle pagine dei quotidiani per parlare un po' di questo movimento che sta prendendo piede in Germania. Ogni lunedì si riunisce a Dresda, e da tra l'altro adesso non più soltanto a Dresda, e si chiama Pegida ed è un movimento dichiaratamente anti-Islam. Se ne occupa anche il Manifesto in prima pagina, ma anche a pagina 6, le ombre nere su Merkel. La cancelliera si precipita a stigmatizzare, ma le parole del movimento non sono distanti da quelle euro-tedesche, perché questo movimento, guarda caso, è anche molto anti-europeista, perché vuole portare avanti una politica completamente diversa sull'immigrazione e di una politica troppo lassista sull'immigrazione accusa l'Unione Europea, da qui appunto l'idea che, come sottolineavano il Corriere e il Foglio, questo movimento può anche intralciare l'attuale posizione della Germania verso Bruxelles, perché crea nuove tensioni. Ma Simone Pieranni, sempre sul Manifesto, cerca di tracciare un po' la mappa di questi nuovi, quelli che vengono chiamati fascisti europei, comunque diciamo movimenti di estrema destra, perché ce ne sono anche in altri paesi, come per esempio in Ungheria. Dal Corriere della Sera, invece, cambiamo paese, cambiamo continente, Rocco Cotroneo ci racconta lo strano governo di Dilma II, Dilma Rousseff, che è la presidente del Brasile, ha scelto il suo governo fatto di 39 ministri, infatti Rocco Cotroneo lo definisce il governone. Ci sono anche alcuni personaggi controversi, però naturalmente sono molte le speranze per questo secondo mandato di Dilma Rousseff per il paese, che fino a due anni fa, diciamo, stava crescendo a ritmi abbastanza veloci. Si sperava addirittura che i mondiali di calcio dello scorso anno dessero ulteriori spunto, proprio così non è stato, però adesso si aspettano invece i giochi olimpici del 2016 che forse potrebbero dare nuovo impulso e magari scatenare un po' meno polemiche. Ricorderete proprio alla vigilia dei mondiali quante persone in Brasile contestavano il fatto che tanti fondi fossero stati utilizzati per costruire nuovi stadi anziché magari tamponare altre emergenze come quelle abitative delle grandi città del Brasile. Sempre dal Corriere della Sera vi segnalo, ne abbiamo parlato tanto ieri, il famigerato convegno che si terrà il 17 gennaio a Milano, intitolato Difendere la famiglia per difendere la comunità. Il problema è che tra gli obiettivi di questo, tra gli organizzatori di questo convegno c'è anche un'associazione che si chiama Obiettivo Share ed è un'associazione che in passato non ha nascosto l'idea che l'omosessualità sia una malattia che va curata e da qui tutte le polemiche. Ma ci spiegano Giampiero Rossi e Andrea Senesi, la regione non toglie il patrocinio al convegno della discordia, perché appunto oltre a essere un convegno di per sé della discordia ha anche il patrocinio della regione Lombardia. L'accusa è quella di essere un convegno omofobo, ma l'assessore di Maroni competente dice la famiglia naturale per noi è un valore cardine e tra l'altro resta sul convegno non solo il patrocinio della regione Lombardia ma anche il logo dell'Expo. Vi segnaliamo il caso analizzato da Sergio Rizzo sulla privatizzazione definita kafkiana della Croce Rossa. Se ne è occupato Giovanni Santucci sul Corriere della Sera molto nei giorni scorsi. È una vicenda, appunto, la Croce Rossa è stata privatizzata ma è in fortissima crisi e Sergio Rizzo cerca di spiegarci un po', di ricordarci come si è arrivati a questa situazione. Pignoramenti, esuberi, assunzioni forzate e la privatizzazione kafkiana della Croce Rossa. Tra l'altro c'è una chiara accusa al governo Monti, vi leggo la prima parte di questo racconto, di questo excursus storico, possiamo dire, della privatizzazione della Croce Rossa. Che un ente pubblico sia costretto a vendere immobili per pagare gli stipendi non può essere considerato una cosa normale, meno che mai se l'ente pubblico in questione è la Croce Rossa, che ancora gestisce in parte del paese il servizio di emergenza sanitaria. Se poi ci mettiamo il fatto che non è la conseguenza di una crisi aziendale, ma di una legge fatta male, lo scenario completo. Questa storia kafkiana comincia nel 2012, quando il governo di Mario Monti, di fronte ai 170 milioni l'anno che lo Stato italiano tira fuori per finanziare la Croce Rossa, decide che va privatizzata. Soltanto che lo fa in un modo tale per cui quella privatizzazione risulta impossibile. E appunto c'è tutta la storia che purtroppo non abbiamo il tempo di leggere, ma lo potete fare voi tutti a pagina 21 del Corriere della Sera. Sempre dal Corriere della Sera un articolo bellissimo su questo film che vi ho già detto, a me è piaciuto molto, di Imitation Game, ma in realtà è perché è veramente un film molto fedele alla biografia, alla storia di Alan Turing, il matematico che si è suicidato nel 1954. Ci salverà la matematica. Luca Mastrantonio ha intervistato un po' di matematici, tra i quali Andrea Malchiodi, che è un giovane matematico classe 1972, quindi compirà 42 anni quest'anno, che insegna analisi matematica all'Università Normale di Pisa, però prima ha insegnato a Trieste e a Warwick in Gran Bretagna e secondo lui ci salverà la matematica. Luca Mastrantonio appunto ha chiesto ad Andrea Malchiodi di vedere il film e il matematico italiano ha detto è appunto un film molto bello, i numeri come strumento di libertà e amore, cosa ci ha lasciato Alan Turing oltre al computer, perché io lo ricordo sempre con piacere, è grazie ad Alan Turing che abbiamo poi, gli scienziati dopo di lui sono riusciti a sviluppare i primi computer. Purtroppo avevo segnato tante cose ma non c'è tempo per tutto, però visto che abbiamo parlato di Siriza, che è sicuramente un tema che è importante in questi giorni, dalla pagina 3 della Stampa un'intervista di Marco Zatterin, corrispondente da Bruxelles della Stampa, al braccio destro di Tsipras, Dimitrios Papadimoulis, dice basta allarmismi, se vinciamo restiamo nell'Unione Europea. Gli chiede Marco Zatterini, in altre parole volete un'Europa diversa ma sempre un'Europa? Sì, virgola, sì. La nostra visione e il nostro obiettivo vuole rendere la Grecia un paese attivo e partecipe dell'Unione Europea tutto tondo, non una colonia dell'impero tedesco. Sempre dalla Stampa un articolo di Carlo Grande sulla questione che torna ciclicamente delle baleniere giapponesi, sapete le associazioni ambientaliste e non solo contestano da molti anni questa pratica della caccia selvaggia alle balene e anche della crudeltà con cui vengono uccisi questi incredibili animali. Il titolo è Baleniere senza più arpioni, il Giappone si arrende all'ONU, perché pensate che appunto era intervenuto anche l'ONU su questa questione. Sulla morte di Pino Daniele, come vi dicevo, ci sono almeno due pagine su tutti i giornali anche oggi. Forse l'articolo che mi ha colpito di più è quello sulla Stampa di Luca Dondoni, che ha parlato con Francesco De Gregori, che tocca un tasto secondo me commovente, che è quello di quando muore una persona e ci rendiamo conto, se la conoscevamo, che forse avremmo dovuto, tanto era bella questa persona, avremmo dovuto, potuto frequentarla di più, e purtroppo non c'è più tempo per farlo, ma sono rimpianti veramente, che sono di quei rimpianti che distruggono, perché nessuno possiede la macchina del tempo per tornare indietro a fare scelte diverse negli affetti. E quindi Francesco De Gregori, appunto, geniale e rigoroso, un amico mai frequentato abbastanza. Scrive Luca Dondoni: di sfide con la chitarra ne ha vinte molte pure Francesco De Gregori, e anche di queste sfide musicali e compositive che Francesco avrebbe parlato ancora e volentieri con Pino Daniele, un amico, dice, mai frequentato abbastanza, la cui scomparsa lascia tutti senza parole. Ecco, purtroppo in realtà di parole, come dicevo ieri, ne sono state dette tantissime in questo processo di, potremmo dire, deificazione precoce, che si accompagna poi a quelle che secondo me sono molto spiacevoli polemiche della famiglia sui funerali, la sepoltura, i soccorsi. Sono, pensate, state aperte addirittura due inchieste, ma tutta questa è cronaca e, come vi dicevo, la trovate su tutti i giornali. Dalla Stampa anche una divertente pagina dove Vittorio Sabadin ci racconta da Las Vegas il ritorno del Walkman, con la foto che credo tutti quelli della mia generazione ricorderanno, del film del 1980 Al tempo delle mele, in cui durante una festa una giovanissima Sophie Marceau, il suo fidanzatino, infila delle cuffie in testa con il Walkman, e la canzone è naturalmente quella, è la colonna sonora del Tempo delle mele, tutto intorno stanno ballando un rock scatenatissimo, ma loro poi ballano un lento. La Sony lancia, ma la notizia c'è, cioè non è soltanto un articolo nostalgico sugli anni 80, la notizia è che la Sony lancia il NWZX2, che permette di sentire musica ad alta risoluzione, come si faceva, insomma, sentire musica non ad alta risoluzione, però sentire musica con le piccole cuffie nelle orecchie, come si faceva con i primi Walkman. Vi segnalo dal Messaggero una pagina di retroscena su questa questione del decreto fiscale, lo faccio perché soprattutto la foto è significativa, ritrae Stefano Fassina e Gianni Cuperlo in aula alla Camera, parlano fitto fitto, sembra veramente, uno potrebbe pensare stanno parlando naturalmente due dell'opposizione, viste poi le dichiarazioni che hanno fatto, in realtà non sono membri dell'opposizione come ben sapete, sono membri della minoranza PD che, come vi dicevo, ha colto questo passo falso sul decreto fiscale per muovere delle critiche durissime a Renzi. Dal Messaggero un'altra notizia che trovate, ma solo in parte, sugli altri giornali: Guantanamo si svuota, Obama in silenzio porta via i prigionieri, ci sono addirittura dei voli notturni per trasferire i sospetti terroristi in Uruguay e altri paesi. Ricorderete forse che una delle grandi critiche fatte a Obama dopo la fine del primo mandato e adesso che è oltre la metà del secondo è che lui aveva promesso durante la prima campagna elettorale di chiudere Guantanamo, Guantanamo in realtà è ancora aperta, e da qui appunto Guantanamo che si svuota, Obama in silenzio. Piccola notizia positiva, il Messaggero ci dice che Alitalia darà una connessione wifi sugli aerei, grande progresso, perché in Italia la connessione wifi, a differenza di tantissimi altri paesi, non solo non c'è sugli aerei, ma nemmeno in moltissimi altri luoghi. Ultimissima segnalazione prima di passare di nuovo la parola a Irene, che vi stuzzica un po' su tutto quello di cui parlerà poi, è l'approfondimento sul ormai famoso / famigerato studio pubblicato da Science settimana scorsa, che spiega che nel 66% delle occasioni il cancro non è dovuto a stili di vita sbagliati, ma purtroppo alla sfortuna o magari a mutazioni imprevedibili. Interviene Assuntina Moresi: tumori rischio di rassegnarsi se la scienza si affida alla sorte, la prevenzione non è mai inutile e non c'è mai soltanto il caso. Direi appunto di mantenere un po' di buon senso su questa questione, perché lo stile di vita sano magari non ci salva con certezza dal cancro, ma sicuramente ci aiuta. Ma era veramente l'ultima segnalazione che ho tempo di farvi, la parola a Irene, un piccolissimo saluto, poi noi penso ci risentiamo domenica per la rassegna stampa, ma da domani torna Alessandro Milan. Giulia Crivelli, grazie, ci mancherai naturalmente, buon lavoro, grazie per questo lavoro durante questi speciali festività invernale, ho apprezzato la tua presenza non solo come lettrice ma anche come persona. E noi di cosa parleremo alle 8.30 in 24 mattino oggi? Sappiamo bene che il Jobs Act è stato approvato e che i due sindacati principali, CGIL e CISL, hanno protestato contro la riforma del lavoro, perché è stata approvata senza nemmeno discussione con le parti sociali. Però la rabbia si è concentrata soprattutto sulla possibilità delle aziende di licenziare molto più facilmente. Allora, di articolo 18 si è parlato molto a margine delle discussioni sul Jobs Act. Si è parlato un po' meno, si è esplorato un po' meno il problema della formazione, della riqualificazione. Pensate, la prendiamo larga, che la speranza di vita in Svezia, ve la diciamo in Svezia perché lì l'hanno registrata, delle donne nel 1840 era di 45 anni, oggi è di 83. In Italia la situazione è analoga. Questo dato da solo ci spinge a cambiare tutte le decisioni, non solo sulla salute, ma su quanto risparmiare, quando andare in pensione, come lavorare. Cioè, ci aspetta in seguito a questa longevità una situazione esistenziale completamente diversa. Che servizi devono offrire le agenzie istituzionali per quel che riguarda il lavoro? Quando si perde il lavoro, chi ti aiuta a ritrovarlo? Di questo discuteremo e aspettiamo i vostri contributi al 349-238-6666. 24 mattino. Buongiorno, ancora una volta da Irene Zerbini, le 8.18, siamo insieme dalle 6.30 e abbiamo affrontato il tema della scuola legato a doppio filo all'innovazione. Abbiamo visto anche come in Italia abbiamo delle eccellenze straordinarie che si guadagnano il palcoscenico del mondo, anche nel mondo dell'istruzione. Abbiamo sentito della fortuna, dell'intraprendenza, della bravura imprenditoriale, se volete, degli italiani all'estero, ma adesso concentriamoci sul lavoro in Italia. Sul lavoro quando in Italia lo si perde. Che si fa? E qui i vostri messaggi sono impregnati di rassegnazione. Addirittura c'è chi invoca il fatto che decreti, aiuti istituzionali, aiuti governativi si spengano in qualche modo, che non ci siano, fanno più danni che benefici, lasciateci. Io sono un disoccupato del nord-est, lasciato a casa grazie al decreto 78 del 2014 per superamento della soglia del 20%, e ve lo dico io, è meglio che noi ci arrangiamo, hanno già fatto abbastanza. Questo scoramento, questa rassegnazione sul fatto che possa un'istituzione, la società in generale, aiutare a ritrovare un lavoro, è l'eredità dell'esperienza italiana, dove il lavoro, come ci scrive un altro ascoltatore, o te lo trova il sacerdote o veramente sei messo male. E chi vi aiuta quando perdete il lavoro, quando finisce il famoso contratto precario, quello che ormai contraddistingue la maggioranza dell'universo delle persone che un impiego ce l'hanno? E cosa invece vi aspettereste che succeda? Cosa vorreste che si verifichi, visto che si parla sempre di flessibilità? Il Jobs Act rilancia questa parola d'ordine in continuazione e vogliamo capire prima cosa hanno prodotto già sul territorio le agenzie che si sono attivate in questo senso, se di risultati ne hanno prodotti o se viceversa è piuttosto deludente il segmento di persone che sono riuscite a aiutare. Poi se voi avete suggerimenti, indicazioni che potrebbero anche migliorare le cose. Intanto un esempio noi lo vogliamo prendere dall'Olanda e ringrazio, saluto il presidente della stampa estera Maarten van Alderlen. Buongiorno. Buongiorno, sono Maarten van Alderlen. Buongiorno. Buongiorno. Maarten, tu presiedi la stampa estera, quindi da tanti anni osservi quello che succede in Italia, ma ti scambi naturalmente opinioni, dibattiti in conferenza stampa, commenti con i colleghi un po' di tutto il mondo. Innanzitutto scrivi per Der Telegraph, sei olandese, e raccontaci cosa succede in Olanda quando qualcuno perde il lavoro, che tipo di interventi lo Stato o le autorità locali possono portare a termine? Allora, in Olanda esiste la cosiddetta WW, e questo sta per Werkloosheidswet, la legge della disoccupazione. Questo vuol dire che quando hai perso il lavoro hai diritto di un sussidio che dura da 3 mesi fino a 3 mesi, dura da 3 mesi fino a 3 anni e 2 mesi, dipende molto da varie circostanze, quindi ci sono molti fattori che determinano quanto tempo hai diritto di questo sussidio da parte dello Stato. Quindi innanzitutto dipende quanto tempo hai lavorato, quanti anni hai lavorato e all'interno di questi anni quante settimane hai lavorato. Poi naturalmente non devi aver smesso tu di lavorare per tua propria volontà, ma devi essere stato dimesso. Poi devi anche essere disponibile di fare un altro lavoro. Quindi per quanto tempo avrai questo sussidio da parte dello Stato e la quantità di cui si parla, perché anche questo è importante naturalmente, è dal 70 fino al 75% dello stipendio che hai avuto. Dal 70 al 75% dell'ultimo stipendio o degli anni vengono conteggiate, ho capito. E questo tipo di intervento viene in qualche modo osteggiato, dibattuto, cioè l'opinione pubblica pensa che sia uno spreco o invece è accolto come ammortizzatore sociale, come elemento necessario per evitare la povertà, così tranquillamente da destra e da sinistra? Si cambierà un pochino questo, è già cambiato un po', l'anno prossimo si vuole cambiarlo ancora di più e quindi pian piano verrà un po' diminuito. Anno per anno vogliono l'idea sarebbe che nel 2019 alla fine che questo sussidio verrà ridotto al massimo a 2 anni, mentre come dicevo adesso è 3 anni e 2 mesi al massimo, e quindi l'idea è anche che questo sussidio è legato all'ultimo stipendio, a questo 70% o 75% dell'ultimo stipendio che hai guadagnato. E a parte il sussidio, dunque l'intervento economico a sostegno di chi ha perso il lavoro, ci sono anche corsi di riqualificazione, di formazione continua per il lavoratore che si trova licenziato? Sì. Esiste questo, e a parte questo, come funziona? Come funziona? Ci sono vari modi, ma quello che è molto importante, quello che voglio anche sottolineare, perché è molto variegato naturalmente, però esiste, no? Assolutamente, ma quello che è molto importante è che devi accettare un altro lavoro quando c'è la possibilità, devi dimostrare anche che c'è un altro lavoro, che ti impegni per un altro lavoro, e devi anche dimostrare di essere disponibile di trasferirti in un altro posto. Ora l'Olanda è un paese piccolo, ma devi anche dimostrare di essere disposto di andare in altro paese per lavorare lì. Ecco, questo è molto importante. Perché e chi mette in contatto, scusa Martin, ma chi mette in contatto il potenziale lavoratore o dipendente con l'impresa che ha bisogno di lui? Allora, tu hai contatto con il comune e devi dimostrare al comune, devi dimostrare che hai una buona volontà di cercare questo lavoro, questo è importante. Quindi chi quando non dimostra buona volontà non avrà più un sussidio, devi dimostrare quando tu ricevi il sussidio, l'assegno. Devi dimostrare che l'assegno, scusami, quando ricevi l'assegno devi dimostrare nel stesso momento che ti dai da fare, che fai colloqui eccetera eccetera, e che sei disposto, perché a un certo momento ti arriva questa possibilità, allora che sei disponibile di trasferirti, insomma. In questi anni in cui hai trascorso in Italia hai osservato grandi differenze tra il mondo del lavoro in Italia e il mondo del lavoro in Olanda e anche la mentalità. Sì. Sì, una delle cose che ho sempre notato è che in Olanda è molto facile fare piccoli lavori. Mi ricordo quando studiavo in Italia, per pagarmi i viaggi per venire in Italia dalla mia allora donna, io facevo molto spesso dei piccoli lavori, cioè si entra in questi uffici dove loro hanno per esempio bisogno di una persona il giorno successivo per 5 ore per esempio, no? Quindi io dico vorrei lavorare, loro dicono allora dopodomani per 3 ore c'è un lavoro lì, ma sono lavori molto semplici, ma questo è un esempio di flessibilità di lavoro e di scarsa burocrazia anche. E questa cosa qui come Manpower, che esiste anche qui, Randstad olandese, ci sono anche qui, ma da noi è molto più diffuso. Ed è molto più semplice anche ricevere il pagamento immediatamente, iscriversi, sì. Trovarlo proprio dall'oggi al domani, letteralmente. Sì. Abbiamo scomodato te che sei olandese, ma questo tipo ci di esempi ci sono in tante nazioni oltre confini. Marten, grazie naturalmente per il tuo contributo. Di che altro hai scritto dall'Italia negli ultimi tempi su Der Telegraph? Io scrivo abbastanza regolamento su Papa, perché questo Papa interessa anche l'Olanda, anche se solo una parte in Olanda è cattolico, in questo momento più o meno, ma veramente un basso percentuale, adesso sono un po' più rispetto a protestanti, ma ho notato che perfino persone che non hanno avuto un'educazione religiosa sono molto interessati in quello che dice il Papa e si sentono perfino attirati, quindi questa è una cosa veramente che colpisce molto. A parte l'interesse per il Vaticano che è un po' cresciuto con questo Papa Francesco, anche la questione dell'immigrazione è molto sentita, quindi ho scritto sia sull'annuncio della creazione dei nuovi cardinali al prossimo consistoro, ma a parte questo ho scritto anche sulla questione dell'immigrazione, sulle navi fantasma che vengono, su questo ho scritto 2 giorni fa, diciamo questi trafficanti di esseri umani che a un certo momento abbandonano le navi e lasciano andare le navi così verso le coste, sul dramma diciamo dell'immigrazione. Anche questo è un argomento sentito da molti giornalisti e dalla stampa estera. E dall'opinione pubblica olandese, visto che qui c'è la sensazione che l'Europa se ne lavi un po' le mani, l'opinione pubblica olandese invece tu ci confermi ha una sensibilità in questo senso. Sì, grazie anche al nostro lavoro come corrispondenti, perché finché noi scriviamo di questi argomenti allora si sensibilizza naturalmente l'opinione pubblica, e l'opinione pubblica che capisce che c'è un problema in Italia e che questo problema per l'Europa, visto anche che questi immigrati poi vogliono tutti non rimanere qua ma andare verso Nord Europa, anche grazie, l'Olanda, quindi grazie. Si capisce che è un problema sentito e diviso da tutta l'Europa. Marten van Alderlen presiede la stampa estera in Italia e abbiamo anticipato quello che sarà il tema del nostro dibattito. Vorremmo sentire anche qualcuno al Ministero del Lavoro, un responsabile che ora cercheremo e che possa dirci come si può fare in Italia quando si perde lavoro, la riqualificazione, la formazione. Voi continuate a mandarci i vostri messaggi al 349-238-6666. 24 mattino. Ce l'abbiamo dunque qualcuno che possa rispondere su quello che ci aspetta? Il sottosegretario Luigi Bobba è con noi? Pronto? Eccomi. Buongiorno, ecco. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. PD, sottosegretario al Ministero del Lavoro. Innanzitutto stiamo parlando proprio di lavoro e di sussidi, di aiuti, di formazione. Quando questo lavoro, visto che la flessibilità, la precarietà ormai sono diventate la parola d'ordine di questo millennio, questo lavoro viene a mancare. In sostanza, il lavoro che ti accompagna per tutta la vita, che ti dà diritto al TFR integro e fino in fondo, che ti porta, ti accompagna alla pensione, è un po' un residuo di una mentalità del secolo precedente ed è un ricordo del passato. Abbiamo sentito dall'olandese, anche da tutti voi che ci scrivete, l'alternativa qual è? La possibilità di sussidiare in qualche modo con interventi statali, con un intervento economico, le famiglie che si trovano nella fase di transizione, questa almeno la più gettonata, poi se ce ne sono altre sono benvenute. sostenute, e soprattutto riqualificare, riformare coloro che il lavoro l'hanno perso. Cosa sta facendo il Ministero e per questo segmento della popolazione, sottosegretario, perché qui ci stanno scrivendo 58enni lasciati a casa, disperati, dicono l'alternativa sarebbe il bicchierino e l'elemosina, e naturalmente il segmento poi anche ci sta anche molto a cuore, quello dei giovani, 1.600.000 posti persi negli ultimi anni. Cominciamo con questi ultimi, per i ragazzi voi avete creato Garanzia Giovani, come sta andando? Ma il programma è iniziato nel mese di maggio scorso, ha riguardato, nel senso che si sono iscritti al portale del Ministero delle Regioni, più di 350.000 giovani. Questi giovani poi vengono chiamati dai centri per l'impiego e hanno un colloquio di orientamento e successivamente gli viene presentata un'opportunità, diciamo così, tra un primo inserimento lavorativo di 6-9 mesi oppure una possibilità di tirocinio, di stage o di formazione professionale specializzata o di servizio civile o di sostegno all'autoimpiego. Insomma, un'opportunità per cercare di, da un lato, ridurre la distanza tra il tempo della fine della scuola e il lavoro e dall'altro lato la possibilità, insomma, di un avvicinamento effettivo al lavoro in modo da non lasciare, diciamo, questo capitale umano inutilizzato come ahimè avviene per tantissimi giovani. Senta, dottor Bobba, come lei sa, adesso le leggo il titolo, diciamo, del più mite dei blog sul lavoro o dei giornali che si sono occupati di Garanzia Giovani, parla di flop, questo è il più moderato, nel senso che le cifre ci dicono che in realtà non ha raggiunto tutti quei giovani che doveva raggiungere, anzi purtroppo, secondo questi sono i dati disponibili dal rapporto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha raggiunto 355.000 unità, dunque un dato del 20,6%. Siccome gli ascoltatori sono un po', come dire, scettici, critici, dicono che tanto dal Ministero non si dirà mai la verità, è inutile intervistarla, smentiamoli, allora ci dica la verità, visto che è piuttosto deludente questa Garanzia Giovani. Secondo lei perché? Ve l'aspettavate? C'è bisogno di più tempo o c'è bisogno di coordinare meglio le regioni? Dove bisogna intervenire? Ma innanzitutto è la prima volta che c'è un programma nazionale coordinato effettivamente dal centro, cioè dal Ministero del Lavoro. Ahimè, abbiamo un sistema molto frammentato di servizi per il lavoro, ogni regione, come dire, faceva un po' repubblica a sé, e quindi questo ha scontato all'inizio una certa, diciamo, lentezza o comunque difficoltà. E poi questa difficoltà si manifesta ancora anche oggi con il fatto che ci sono regioni che hanno messo in campo le misure operative, cioè quindi hanno impegnato i quattrini che hanno a disposizione, vicini a superiori anche all'80%, ed altre regioni come la Sicilia che sono invece intorno al 15%. Questo ha fatto sì che, insomma, questa geografia dei servizi e, diciamo, della possibilità di intercettare questi giovani sia alquanto differenziata. Secondo, voglio ricordare che il programma ha una durata fino alla fine del 2015, cioè entro il 2015 devono essere impegnate tutte queste risorse che sono state messe per i 2/3 dall'Unione Europea, per 1/3 dal governo italiano, vale a dire 1,5 miliardi. E quindi il fatto che abbiamo raggiunto 355.000 giovani, diciamo così, in 7 mesi, scontando anche la partenza con le difficoltà necessarie, con le difficoltà effettive, abbiamo altri 12 mesi per raggiungere gli altri giovani. Sì, quindi... però, sottosegretario, abbia pazienza, cioè che si sapeva anche prima che le regioni avevano un pochino una sorta di federalismo sul muoversi. Cioè, a caso nel testo della riforma costituzionale che è alla discussione alla Camera, c'è una revisione che riporta alla dimensione nazionale la gestione, l'indirizzo dei servizi per il lavoro. Noi dobbiamo muoverci, ahimè, nelle regole esistenti, non è che potevamo, diciamo, cambiare la Costituzione con un decreto del Quindi Ministero. Quindi centralizzerete questi servizi così fondamentali. Stiamo guardando con molta attenzione all'esperienza in Germania, dove c'è un'agenzia nazionale di servizi per il lavoro che si occupa di tutte quelle cose che lei ha ricordato nell'introduzione, cioè servizi di orientamento, ricollocamento, inserimento, formazione, e avere, diciamo così, la possibilità di una guida nazionale e una capacità di mettere in campo non solo i centri pubblici per l'impiego, ma adesso anche le agenzie private accreditate, oltre che i servizi di formazione professionale e anche le stesse università e le scuole, in questa seconda parte del programma, cioè nel 2015, consentirà, diciamo, di avere, diciamo così, un volume di fuoco, una possibilità di intercettare quegli altri giovani che non siamo ancora riusciti a intercettare. E ben venga, perché 7.100 giovani, insomma, che sono riusciti a trovare lavoro grazie a queste agenzie, per ora sono un po' pochino. Deve essere centralizzata, senza dubbio, è una delle soluzioni. E segnaliamo un'altra cosa positiva: le imprese continuano a inserire occasioni di lavoro, cioè a guardare con grande speranza queste iniziative non sono tanto e soltanto i giovani, ma soprattutto le aziende. Luigi Bobba, rimanga con noi. Walter Passerini, buongiorno, benvenuto. Buongiorno Irene, buongiorno a tutti e ben ritrovati. Walter Passerini anche oggi ha scritto sulla stampa alcune delle sue ricette, ormai un esperto del mondo del lavoro, per ripartire dando occasioni, opportunità ai giovani e soprattutto per cambiare la mentalità in Italia di come deve essere concepito, distribuito il lavoro. Hai sentito quello che ha dichiarato il sottosegretario poco fa? Verranno centralizzate queste agenzie, è un passo in avanti, è una buona cosa? È un'ottima cosa, perché ormai tutti sappiamo tutto, non ci sono più alibi per nessuno. Dobbiamo da un lato dare più valore al lavoro, perché l'abbiamo ridotto a una merce, l'abbiamo ridotto a una transazione commerciale il lavoro, mentre il lavoro è qualcosa che va oltre, va dentro l'identità delle persone, è un modo per vedere il futuro quando si guarda il lavoro, quindi dare valore al lavoro. E la seconda cosa è dare servizi per il lavoro. Ora, l'Italia è ancora molto indietro in questa cultura dei servizi, cioè il diritto al lavoro sta diventando il diritto ai servizi per il lavoro, solo che noi stiamo passando da una società ad un'altra e quindi abbiamo bisogno di formare. Perché non sta sviluppando tutto il suo potenziale un provvedimento molto buono sulla carta come quello di Garanzia Giovani? Per due questioni. La prima è che i servizi non sono pronti. Cioè i centri per l'impiego pubblici e le agenzie private intanto non sono abituati a fare rete tra di loro, anzi fanno competizione semmai tra di loro, ma poi ognuno guarda con l'occhio il proprio marciapiede, e quindi bisogna formare gli operatori di questi servizi. Senza una formazione specifica alla Garanzia Giovani io non credo che naturalmente le reti funzioneranno. E l'altra è il problema della domanda delle imprese. Noi stiamo tenendo in stand by le imprese. Perché? Perché con tutti questi momenti di cambiamento delle formule contrattuali, del contratto a tutele crescenti, del contratto a termine e così via, stiamo in realtà creando una sorta di alone, di opacità nel rapporto tra impresa e domanda di lavoro, che per esempio fa sì che oggi molte imprese, che pure avrebbero anche la necessità di assumere qualcuno, stanno aspettando una sorta di che la nebbia si diradi, che il fumo smetta di continuare, e per avere una certezza. Ecco, le imprese chiedono semplicità e certezza nelle formule contrattuali, vanno sostenute nella loro domanda, vanno sostenute nelle politiche di investimenti, ma soprattutto hanno bisogno di un clima di certezza. In questo momento nella Garanzia Giovani ci sono, c'è circa un 10% di opportunità rispetto ai ragazzi che si sono iscritti. Noi non dobbiamo togliere la fiducia a questi ragazzi, si sono iscritti, ma adesso bisogna lavorare per loro. E dunque Luigi Bobba, lei ha indicato una strada, ma noi ci chiediamo, tutte queste difficoltà che sono emerse non si potevano prevedere, non si poteva arrivare preparati anche di fronte ai giovani, di fronte all'opinione pubblica, con le regioni già attrezzate e con un sistema di erogazione del lavoro e di incontro tra domanda e offerta più efficiente? La situazione è che da un lato bisognava fare in fretta, perché il programma appunto ha uno spazio temporale tra il 2014 e il 2015 e quindi bisognava metterlo in campo nel tempo più rapido possibile. Dall'altro avevamo, diciamo, questa situazione fortemente diversificata da regione a regione, perché ci sono realtà dove le cose funzionano molto bene. Io prima di Natale ho visitato per esempio il centro per l'impiego di Torino, della città di Torino, credo che sia un caso di eccellenza nella capacità di fare tutti quei servizi che adesso ricordava Walter Passerini, in avere anche quell'atteggiamento, quell'approccio, diciamo così, al servizio come elemento essenziale in un mercato del lavoro molto più diversificato. E quindi si è scelto di cominciare anche dentro questa situazione, diciamo così, complicata, perché comunque un'opportunità andava data, e credo che con la seconda fase che il ministro ha presentato proprio prima di Natale di gestione del programma, con la messa in rete delle agenzie private con i centri pubblici, cosa che ha ricordato adesso Passerini, con il dispiegamento di tutte le opportunità che le regioni devono, diciamo, impegnare anche finanziariamente, e con, diciamo, un approccio alla formazione, si sta facendo, in parte è stata fatta, continuerà, degli operatori, io credo che avremo dei risultati che saranno sicuramente migliori di quelli che finora si sono determinati. Sì. Insomma, tirare un bilancio considerando 10.000 che programma... ragazzi che hanno ricevuto oggi una proposta di lavoro, con 1.600.000 disoccupati, credo che i risultati non potranno che migliorare. Ma bisogna anche un po' guardare un po' dentro questi dati, perché per esempio da molte regioni ci segnalano che non sempre anche i ragazzi che si sono iscritti poi si presentano al colloquio di orientamento. Questo è un dato un po' ambivalente, se effettivamente quel dato registrato dall'Istat corrisponde poi, diciamo, a una domanda effettiva, o se magari ci sia qualcosa anche che potrebbe essere un'eventualità, una sfiducia per cui uno si iscrive ma poi non ci crede veramente. Quindi adesso forse con, diciamo, l'approfondimento del programma e lo sviluppo dello stesso avremo forse anche una valutazione più puntuale, e dunque anche gli strumenti potranno essere più, diciamo, coordinati e orientati all'effettiva domanda. Insomma, per ora si è fatto così, bisognava fare in fretta, questa è un po' la sintesi, e poi vedremo di tararci in corso d'opera, ma il lavoro purtroppo è un'emergenza da parecchi anni, e di conseguenza bisogna arrivare preparati e veloci, non solo efficaci, ma bisogna agire in grande velocità. A proposito di velocità, c'è tanto traffico sulle strade, controlliamo un attimo la situazione e poi torniamo insieme. 24 mattino. 8:48, quando è che si smette di essere giovani? Ci chiedono anche alcuni ascoltatori, perché l'età oscilla naturalmente. Secondo questa garanzia giovani, inizialmente si era tali fino a 24 anni, poi è stato allargato un po' il raggio d'azione ed intervento fino a 29. Giovani lo si è anche a 35. Ringraziamo per il suo tempo, per la sua pazienza, Chiara. Buongiorno Chiara. Buongiorno. Lei dove si trova? Mi trovo a Rotterdam, nei Paesi Bassi, Olanda. Sì, ritorna all'Olanda oggi, è proprio la giornata. Sì. Perché è lì? Per lavoro, sostanzialmente. sostanzialmente solo per lavoro. A dicembre scorso il mio contratto è finito, sono stata licenziata. Dove era stata licenziata? In Italia o nei Paesi Bassi? No, lavoravo a Roma, ho lavorato a Roma per circa 7 anni facendo vari contratti, tutti i tipi, contratto a progetto, determinato con agenzia interinale e 2 contratti a tempo indeterminato. Nell'ultimo caso lavoravo per una multinazionale globale nel settore della grafica che ci ha licenziato per fine contratto di appalto e quindi mi sono ritrovata a 34 anni a non voler cercare di nuovo lavoro in Italia con le solite modalità e quindi ho colto un'opportunità di venire a lavorare in Olanda e dopo solo 2 mesi ho cominciato questo nuovo contratto qui a Rotterdam, un contratto a tempo indeterminato tra l'altro da subito. E tra l'altro volevo raccontare, forse ormai è un po' più normale, ma ho fatto solo 2 colloqui su Skype, quindi queste persone non mi hanno mai visto fino al giorno in cui sono entrata in ufficio già assunta. Quindi qualcosa che devo dire con tutti i contratti o comunque con tutti i CV che si mandano in Italia e che spesso restano non un po' succede. Nell'aria, sì, non succede, sono rimasta molto molto colpita, così come anche i miei amici, i miei familiari, perché non sono neanche dovuta venire qui a firmare il contratto, ho fatto tutto via mail. Chiara, lei si era rivolta a un'agenzia per l'impiego in Italia? Allora, onestamente questa volta no, sono passata dall'agenzia dell'impiego di Roma perché per i 2 mesi in cui non ho lavorato ho chiesto il sussidio di disoccupazione all'INPS e sono dovuta andare al centro per l'impiego per farmi certificare che il mio contratto era finito e che ero disponibile a lavorare. E cosa le hanno detto? Tutto qui. Mi hanno rilasciato il certificato ovviamente a vista, ma quando poi l'agenzia impiegata ha visto comunque che avevo una laurea, avevo esperienze in azienda, mi ha detto vabbè, tanto poi allegherai il curriculum quando cercherai lavoro, ma non con noi. Questo perché a mio avviso il centro per l'impiego è in grado di collocare persone con qualifiche solitamente che non comprendono una laurea, quindi cioè non con noi perché lei era laureata, quindi le hanno detto praticamente non ci provi con noi. No, non ci provi, anche cioè il centro per l'impiego almeno per la maggior parte delle persone con qualifiche non può aiutare per come è strutturato almeno quello di Roma, io parlo solo della mia esperienza, ha delle offerte di lavoro in bacheca e sul sito, ma non sono per persone che hanno diplomi o lauree o comunque delle specializzazioni, quindi per lavori molto generici e di bassa qualificazione, quindi questo è un po' il senso. Invece spezzo una lancia a favore dell'INPS che subito le ha erogato l'ASPI. Esatto, che è stato molto preciso sia nell'erogare il sussidio sia poi nel terminarlo quando ho mandato comunicazione di aver trovato nuovamente lavoro. Questo quindi, ci fa piacere anche sentire di questa celerità, di queste possibilità di impiego così come dire smart, è un termine che si usa molto con colloqui perfino via Skype. Luigi Bobba, questo scenario del lavoro tracciato da questa nostra ascoltatrice è un po' a 2 dimensioni, da una parte in Olanda la celerità, la velocità, addirittura l'assunzione a tempo indeterminato subito, e da questa parte questa agenzia per l'impiego romana che dice ai laureati con noi è un po' difficile. È ancora con noi, sottosegretario? Sì, sono qui, certo, ma questa esperienza ci dice che per esempio appunto l'INPS, che è un'agenzia nazionale e che si occupa di tutta la parte previdenziale, di tutti gli ammortizzatori sociali, indennità di disoccupazione, cassa eccetera eccetera, ha appunto la possibilità di avere un sistema, un raggio di azione in una dimensione nazionale e diciamo è un esempio appunto di efficienza nella gestione di questo tipo di servizi. Sì, questo ci fa piacere, però parallelamente invece abbiamo un sistema, quello delle cosiddette politiche attive, quelle di cui abbiamo parlato prima, che invece è fortemente frammentato. Non è un caso, ho citato prima l'esperienza di Torino che l'INPS e il Centro per l'Impiego avevano deciso di mettersi insieme nella stessa sede, una persona può sia avere l'assistenza per quanto riguarda l'ammortizzatore sociale, un'indennità, quello che riguardava facendo un viaggio solo, insomma, ci sono tanti sportelli solo, E in Sicilia lei ci è andato? Adesso, al di là dell'eccellenza, ci fa piacere registrare ciò che funziona, ma non deve diventare l'eccezione. Purtroppo noi abbiamo la politica, paghiamo i politici, i governanti per risolvere i problemi. In Sicilia lei ci è andato? C'è andato? No, non sono ancora andato. E perché bisogna andare lì e capire come risolvere questi problemi. Intanto grazie naturalmente a Luigi Bobba, sottosegretario al lavoro, oggi è stato con noi, e ridarei la parola a Walter Passerini della Stampa, esperto di tematiche sul lavoro, perché ci segnalano moltissimi ascoltatori che i rinnovi annuali sono diventati trimestrali in attesa dei decreti, ci scrivono. Questo per far riferimento alle aziende, alle imprese, diceva lei, dicevi tu Passerini, che stanno aspettando che diradi la nebbia, cioè questo clima di attesa, di messa a punto dei decreti, di luce che deve arrivare, di chiarezza che stiamo ancora attendendo, non fa altro che rendere ancora più grave la precarietà del lavoro in Italia. Sì, c'è anche una precarietà normativa, ma io diciamo così spezzerei una lancia a favore di un percorso che abbiamo cominciato, perché allora noi stiamo passando da un sistema di politiche passive, cioè basate su indennità e ammortizzatori come la cassa integrazione, che poteva durare anche 7-8 anni, a un sistema di politiche attive dove c'è l'attivazione sia dei centri per l'impiego delle agenzie, ma anche delle stesse persone. Questo è un cambio culturale. Purtroppo la cultura no, è ancora legata alla vecchia logica del posto di lavoro che veniva trovato da un amico, dal parroco, dal farmacista e così via. Siamo ancora arcaici da questo punto di vista, mentre invece le norme ci dicono: guardate che stiamo passando a un altro mondo. Il problema è che a queste nuove norme bisogna adeguare i servizi. Questo è il passaggio, richiederà tempo, sì, però vedi, io veramente sto male quando vedo come viene trattato il lavoro. Ecco, viene davvero maltrattato, perché da un lato viene ridotto o a normativa o appunto a scambi commerciali tra una persona, un prestatore e un datore, ma dopodiché però noi dobbiamo far scattare la passione per il lavoro. Il lavoro è la cosa più bella della vita, il lavoro non può essere visto solo come negatività, sacrificio, precarietà, dolore. Insomma, il lavoro deve ritornare ad essere la bussola della nostra vita, perché senza di questo noi non riusciremo nemmeno ad entrarci nel mondo del futuro. Allora, ti fermo Walter, grazie per questi tuoi stimoli, queste indicazioni, soprattutto sulla passione. Ed è talmente vero quello che hai detto. Innanzitutto si ferma anche il mio di lavoro a Radio 24, scusate questa parentesi personale, quindi colgo l'occasione per ringraziare tutti: il centralino, Rosa, Michael, Sabrina, Miriam, Silvia, Lorenzo Nespoli, Baba Fusconi, Peter Bescapè, tutti quelli che hanno avuto la pazienza di lavorare con me in questi speciali festività invernali che si concludono oggi, perché ritorna poi la programmazione normale con 24 mattino Alessandro Milan da domani. E ho fermato Walter Passerini, che ringrazio, come ringrazio Luigi Bobba, sottosegretario che oggi è stato con noi, per darvi qualcosa che abbiamo trovato su TED, un posto da frequentare molto. E il lavoro naturalmente è molto cliccato, ma si parla di lavoro proiettandosi al 2030, quando tutto sarà cambiato, quando sarà un'esistenza completamente diversa. Ebbene, Rainer Strack, uno dei maggiori esperti mondiali, ci ha regalato sul lavoro questa riflessione. Number one, workforce planning will become more important than financial planning. Primo, la pianificazione della forza lavoro sarà più importante di quella finanziaria. Secondo, serve un piano per attrarre persone eccezionali. Terzo, ci aspetta una grande sfida di sviluppo delle competenze. E quarto, abbiamo bisogno di un piano per tenere le persone migliori. O in altre parole, per realizzare una cultura dell'apprezzamento e delle relazioni. Comunque, un fattore cruciale di fondo è cambiare il nostro atteggiamento. I dipendenti sono risorse, non costi, non numeri, non macchine. Neanche i tedeschi. Not even the Germans. Thank you. Grazie, arrivederci alla prossima. Un saluto da Irene Zerbini.